Sì, e questa è Giugi con Oblio. Wow, sì, vogliamo una boccata d'aria da tutto. Ascoltami, sarai per me una boccata d'aria. Ascoltami, sarai per me una boccata d'aria. Ho scadenze da rispettare, occhi rossi da spiegare, pasti da saltare per andare a registrare, contratti a tempo determinato per racimolare, 400 euro per andarmi a devastare. Ho voglia di respirare, dammi una boccata d'aria. Non sono bianca o nera, sono una persona varia. Mi piacciono mille cose, do mille interessi, tra di loro contrastanti, distanti, diversi, e per seguirli tutti scendo sempre a compromessi. Un po' di questo, un po' di quello, sì, e poi ti stressi. Guarda che non ne esci, finirai che li detesti. Inspira ed espira e vedrai che ci riesci. Inizio a boccheggiare, c'è bisogno di ossigeno. E se qualcosa non mi va, cerco di dirvelo, cerco di dirvi no, perché so chi sono e non vi seguo, no. Prenderò respiro, respiro forte, l'importante è respirare. E non mi state addosso che c'ho già le mie pare. Lasciatemi cantare, lasciatemi sballare, lasciatemi scopare. Respiro forte, l'importante è respirare. E non mi state addosso che c'ho già le mie pare. Lasciatemi cantare, lasciatemi sballare, lasciatemi scopare. È rivoluzionaria come scuole autogestite, è la boccata d'aria dai nemici, le diatribe. Io non faccio la rivista mentecato, voglio una boccata d'aria fresca da un lavoro contraffatto. Mi chiami yo-yoista, ma la vita è un calendario, tutto ciò che fai torna. Chiamami Bastian Contrario, adesso inutile che inventi la vita melodramma. Voglio una boccata d'aria dai sospetti fotogramma, voglio una boccata d'aria soggiogato dagli intoppi, a volte assenteista dal mio popolo di sordi mani. Cale da immortale mi sublimo. Voglio una boccata d'aria, non lo cambi il tuo destino. Opinionista io bendato, sai ti mando a fare in culo. Tu sei un pezzo d'antiquariato e io ti sputo cazzo. Sei una canaglia artificiale bilanciata dal peso delle tue cazzate, sei una pagliacciata. Respiro forte, l'importante è respirare. E non mi state addosso che c'ho già le mie pare. Lasciatemi cantare, lasciatemi sballare, lasciatemi scopare. Respiro forte, l'importante è respirare. E non mi state addosso che c'ho già le mie pare. Lasciatemi cantare, lasciatemi sballare, lasciatemi scopare. Ehi, sia Oblio, non è un bluff, Giugi, e questo è lo street album. Respiro forte, l'importante è respirare. E non mi state addosso che c'ho già le mie pare. Lasciatemi cantare, lasciatemi sballare, lasciatemi scopare. Respiro forte, l'importante è respirare. E non mi state addosso che c'ho già le mie pare. Lasciatemi cantare, lasciatemi sballare, lasciatemi scopare. Giugi, Siro Blio, una boccata d'aria, da Melegnano a Saronno. E non ci abbiamo sonno, siamo attivi. Dai minchia, va.